Radio 24. Libera la voglia di fare. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Gran Bretagna, l'alta corte dà ragione al fronte pro Europa. Il Parlamento deve votare sulla Brexit. L'esecutivo decide di fare ricorso. Balzo della sterlina. Disoccupazione in crescita, ma calano gli inattivi. Più gente cerca lavoro. In discesa la disoccupazione giovanile. Confindustria dice l'Italia arranca, ma è la settima manifattura al mondo. Terremoto, nuove forti scosse, una di magnitudo 4.8 e nuovi crolli. Il 90% delle scuole, secondo Legambiente, non è costruito con criteri antisismici. Referendum, la decisione del Tribunale di Milano sul ricorso presentato da Onida non arriverà prima di 10 giorni. Se vince il no, andiamo al voto, dice Salvini, sarà tra poco nostro ospite. Migranti, casi di torture ed espulsioni illegali in Italia, accusa Amnesty, replica il Viminale, nel rapporto falsità. E dal Veneto arriva l'accusa dei prefetti, anche i parroci ci voltano le spalle. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono il 349-238-6666 per i messaggi anche su WhatsApp, Effetto Giorno, @radio24.it se ci volete scrivere. In apertura, dunque, parliamo di Brexit. Non è il governo, ma il Parlamento a dover avviare la Brexit perché il Parlamento è sovrano. Così, in estrema sintesi, tre giudici dell'Alta Corte d'Inghilterra e Galles hanno spiegato la decisione di assegnare alle Camere il potere di avviare la procedura di divorzio del Regno Unito dall'Unione Europea. I magistrati hanno di fatto accolto il ricorso, presentato da alcuni attivisti, prima firmataria Gina Miller, titolare di uno dei maggiori fondi di investimento della City. I ricorrenti sostenevano che, senza un via libera dei deputati, il Premier Theresa May non potesse invocare l'articolo 50 dei trattati europei nel marzo prossimo e far partire 2 anni di negoziati con Bruxelles. A questo punto la Premier dovrà affrontare un voto delle Camere e potrebbe anche essere sconfitta, visto che esiste una corposa maggioranza trasversale anti-Brexit. Di lì tutto sarebbe possibile, un cambio di strategia, una Brexit meno hard, un nuovo referendum o addirittura, in ultima analisi, qualcuno ipotizza elezioni anticipate e magari niente più Brexit. Il governo però, deciso a far rispettare il risultato del referendum di giugno, ha già annunciato ricorso in appello e dunque l'ultima parola spetterà alla Corte Suprema, che si pronuncerà tra qualche settimana. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. E dopo il verdetto dell'Alta Corte c'è stato un balzo della sterlina. Il pound è salito oltre 1,24 dollari, guadagnando circa l'1% sulla divisa americana e l'1,3% invece sull'euro, sulla divisa europea. Siamo ai dati sull'occupazione. I dati si riferiscono a settembre, quando il tasso di disoccupazione è salito all'11,7%. Il numero delle persone in cerca di lavoro si riporta così sopra i 3 milioni, in rialzo anche su base annua, parliamo di quasi 100.000 persone. Buono il dato sui giovani. La quota di persone disoccupate fra i 15 e i 24 anni è pari a poco più del 37%, in calo di oltre un punto rispetto al mese precedente. Questo per quanto riguarda i disoccupati. Contemporaneamente però sale anche la stima degli occupati, con un aumento su base annua di 265.000 unità. Come si spiega questa apparente contraddizione, cioè che crescono sia gli occupati che i disoccupati? Si spiega con l'aumento della partecipazione al mercato del lavoro nel mese di settembre, cioè diminuiscono gli inattivi di quasi un punto percentuale ed è crollo su base annua. Parliamo di oltre 500.000 di persone non più inattive. È minimo storico dal 77, data d'inizio della serie. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E della situazione economica italiana si è parlato oggi nel seminario del Centro Studi di Confindustria. Sta seguendo i lavori Teresa Trillò. Teresa, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Sì, qui dunque il rapporto del Centro Studi dice che dopo la crisi, con i paesi emergenti in rallentamento e la ripresa dell'attività industriale nei paesi avanzati, come ad esempio USA e Germania, l'Italia ancora arranca, fatica a ripartire ed è in lenta risalita. L'Italia quindi rimane però il secondo paese manifatturiero in Europa e il settimo nel mondo, con una quota di mercato del 2,3% dimezzata rispetto al 2007. Il presidente di Confindustria dice che non bisogna accontentarsi, ma sentiamo Vincenzo Boccia. i dati confermano che siamo il secondo paese industriale d'Europa, siamo al settimo posto nel mondo e abbiamo potenzialità rilevanti. Il problema non è dove siamo, dove potremmo andare, e su questo bisogna costruire una grande stagione che parta dalle fabbriche e anche dall'esterno delle fabbriche. Qui è parlato anche il ministro Calenda dell'industria, dice che il nostro paese sconta un ventennio di stagnazione e bisogna investire per ricostruire la fiducia, puntando su industria, cultura e manifattura. E poi è intervenuto anche Padoan, che il ministro dell'economia ha parlato della legge di bilancio, difende le misure che sono nella manovra, e dice che bisogna avere una finanza pubblica solida e ribadisce però senza perdere di vista sviluppo e crescita. Questo è importante. Da Roma è tutto, a te la linea. Grazie dunque a Teresa Trillo per questo aggiornamento. Veniamo alle cronache dal terremoto. Una notte spaventosa caratterizzata da una forte scossa sismica di magnitudo 4.8 avvertita all'1.35 con epicentro a Pieve Torina, centri del Maceratese, già colpiti duramente dal terremoto. La scossa, secondo quanto raccontano le persone, è durata molti secondi ed è stata avvertita anche a Roma. Secondo i sindaci dei paesi già colpiti duramente dal terremoto, questa nuova scossa avrebbe causato nuovi crolli, come racconta il sindaco di Ussita, Marco Rinaldi. Le case pericolanti, i congi del muro pericolanti, chiaramente con queste scosse vengono giù. Lo sciame sismico è poi continuato fino all'alba. Si calcolano un centinaio di scosse che sono arrivate anche a magnitudo 3.1, ma mai inferiori a 2 punti. In questo clima di continue scosse di assestamento si fa più difficile anche la verifica di scuole e abitazioni private. Dobbiamo avere pazienza, racconta ancora il sindaco di Ussita. Dobbiamo aspettare che questo sciame sismico si attenui, le persone sono abbastanza tranquille per quanto soffrano di nostalgia, mi chiamano in continuazione per sapere, qualcuno dice mi fai una fotografia, me la mandi la fotografia della mia casa. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E c'è una ricerca di Legambiente che dice che quasi il 90% delle scuole italiane sono costruite senza criteri antisismici. Dovremmo avere in linea Vanessa Pallucchi, che è responsabile, presidente nazionale di Legambiente Scuola e Formazione. Buongiorno Pallucchi, benvenuta. Buongiorno, ben trovati. Allora, cosa ci dicono dunque questi dati? È un po' una fotografia del nostro patrimonio edilizio su un campione di circa 6.000 scuole che sono nei capoluoghi di provincia italiani, e ci dicono che a fronte di un patrimonio abbastanza vetusto edilizio, del cui fondazione prima del 1974, quindi l'entrata in vigore delle normative antisismiche, abbiamo ancora delle scuole che per un 39% hanno necessità di interventi di manutenzione urgente. Quindi abbiamo una fotografia che ci restituisce anche quest'anno una situazione abbastanza emergenziale. Il 90% delle scuole senza criteri antisismici, o almeno sono state costruite così, non è detto che non ci siano stati interventi successivi però. Questo ce lo dovrebbe rivelare una sorta di libretto edilizio che gli enti locali dovrebbero tenere come memoria di quanto è stato fatto all'interno di un edificio scolastico. È una delle nostre richieste, perché riteniamo che più dati sappiamo e più sappiamo valutare anche il fabbisogno di questi edifici. Sicuramente quello che abbiamo riscontrato è che a fronte di norme sia sull'efficientamento energetico e sia sull'antisismico, poi le costruzioni sono state anche fatte in deroga a queste norme, quindi il ben costruito deve essere una pratica che dobbiamo assolutamente ripristinare a norma e con tutte le certificazioni. Grazie a Vanessa Pallucchi di Legambiente per essere stata con noi ed averci raccontato qualche dettaglio di questo rapporto. Ancora la cronaca, strade allagate, smottamenti, traffico rallentato a Roma a causa delle forti piogge che hanno interessato nella notte la capitale, appunto allagamenti in varie zone della città e c'è stato anche il crollo di un muro di cinta. Veniamo al rapporto di Amnesty International, che mette sotto accusa l'Italia. pestaggi, torture e umiliazioni in due casi, anche sessuali, nei confronti dei migranti che non vogliono fornire le impronte digitali. Questo dice il rapporto Hotspot Italia di Amnesty International. Su 174 interviste raccolte nel 2016 fra i migranti sbarcati in Italia, in 24 casi l'ONG ha registrato questo tipo di racconti. Ma l'associazione va oltre, sostenendo che non si tratta di semplici, anche se terribili, abusi, ma di un sistema che deriva dalle pressioni dell'Unione Europea verso l'Italia affinché usi la mano dura nei confronti dei migranti nella necessità di rilevare le impronte digitali a ogni costo. Il relatore del rapporto, Matteo De Bellis. Abbiamo anche ricevuto e reso conto di agenti di polizia che ci hanno detto che effettivamente è stato loro indicato dal Ministero degli Interni che possono usare la forza, cosa che prima non avveniva negli anni precedenti. Il rapporto parla di pestaggio e torture anche con l'uso di manganelli elettrici. Per il capo Dipartimento Immigrazione dell'Interno, Mario Morcone, sono falsità. Giuseppe Tiani, segretario generale del sindacato di polizia SIAP. Per quanto riguarda l'uso del manganello elettrico, no, lo escludo perché la polizia italiana non ha in dotazione né il manganello elettrico né la pistola elettrica. Poi, probabilmente non escludo che qualche piccolo abuso qualcuno possa averlo commesso, no? Se c'è qualcuno, o noi veniamo a conoscenza, che qualcuno dei poliziotti abusa degli esseri umani in difficoltà, noi siamo i primi a denunciarlo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alle cronache del referendum. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno. La vicenda del rinvio del referendum è chiusa, spiega Angelino Alfano. Ciascuno ha parlato, la mia proposta era a livello personale. Come presidente del mio partito, il ministro degli interni, ricordiamo, aveva chiesto alle opposizioni se volessero posticipare la data del voto per il terremoto, proposta bocciata da tutti, anche dal premier. E sul confronto riguardo al voto, Matteo Renzi sfida Beppe Grillo: non definisco gufi quelli che si oppongono al governo, ma quelli che vogliono negare il futuro all'Italia. Quelli che negano e drammatizzano di più degli altri sono il Movimento 5 Stelle. Poi, quando vai al dunque e nella campagna elettorale per il referendum costituzionale, invito Beppe Grillo ad un confronto e lui scappa. E quindi questa è la posizione del Premier, mentre sul fronte delle opposizioni Matteo Salvini della Lega si dice contrario ad un governo di scopo qualora vincesse il no e si dovesse andare subito alle urne. Infine, la decisione del Tribunale Civile di Milano sui ricorsi presentati da Valerio Onida e da un pool di avvocati in relazione al quesito del referendum, una decisione che non verrà presa prima di 10 giorni. A te, Simone. Grazie dunque, Elisabetta Fiorito. Parliamo di un viadotto adesso, di un viadotto in Calabria che l'ANAS dice che è sicuro e del quale però non si fida nessuno. Nei pressi di Celico, sulla statale 107 che collega Cosenza a Crotone, c'è un ponte che fa paura, è il viadotto Cannavino, che sovrasta un baratro di qualche centinaio di metri. Il ponte presenta preoccupanti avvallamenti e a ben vedere da sotto spunta anche qualche ferro arrugginito, ma per l'ANAS è sicuro, non è a rischio crollo, ma presenta un'accentuata flessione in corrispondenza delle travi tampone, si legge in una nota ufficiale, in cui si annunciano lavori di manutenzione prima della prossima estate, con uno stanziamento di 1,5 milioni di euro. Il ponte è monitorato, dice ancora l'ANAS, ma la gente ha paura, anche perché nel 72, durante i lavori di costruzione, lo spostamento di un pilone provocò il crollo parziale dell'opera e la morte di 4 operai. Il capo della Protezione Civile calabrese, Carlo Tanzi, chiede da luglio invano una relazione dettagliata. Inoltre abbiamo anche richiesto i dati sul monitoraggio in tempo reale, però a tutt'oggi non abbiamo avuto alcuna risposta. Francesco Straticò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cosenza. Da domani 4 novembre e per quasi un anno, fino al 15 ottobre 2017, il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, presenta a Villa e Collezione Panza a Varese la mostra Robert Wilson per Villa Panza. Che cos'è? L'artista americano ha progettato per il FAI una mostra complessa fatta di 56 ritratti video. A Varese c'è la nostra Adriana Fracchia che ci racconta un po' com'è questa mostra. Adriana, vai! Sì, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori, sono proprio qui a Villa Panza di Biumo, dove, come hai detto, fino al 15 ottobre del 2017 ci sarà questa bellissima mostra di Robert Wilson, uno dei maestri del teatro contemporaneo, eclettico artista visuale, che ha progettato questa mostra Si tratta di video portraits, in particolare tre sono dedicati a Lady Gaga, è la prima volta che vengono esposti in Italia, è un progetto realizzato nel 2013, presentato al Louvre, sono appunto tre immagini di Lady Gaga che ricordano, che si rifanno a tre capolavori: il ritratto di Mademoiselle Rivière di Ingres, la morte di Marat di Jacques-Louis David e la testa di San Giovanni Battista di Andrea Solari. Poi comunque c'è anche, ci sono altri personaggi famosi in questi portrait, sono raffigurati Robert Downey Jr., Brad Pitt e anche Isabella Rossellini. Poi ci sono anche soggetti animali, in particolare invece c'è un'installazione creata specificamente per Villa Panza, che è la House for Giuseppe Panza, che era il grande collezionista che ha dato luogo a questa, ha dato vita a questa bellissima villa in cui c'è questa importante collezione di arte contemporanea. Invito tutti a venirla a vedere, è davvero interessante. Robert Wilson è proprio un grande maestro del teatro e dell'arte visuale, quindi venite tutti a Villa Panza. Grazie dunque ad Adriana Fracchia che ci ha raccontato questa mostra. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, e anche oggi puntata un po' particolare, il nostro giro per l'Italia, almeno nella prima parte della trasmissione, non ci sarà. Avremo in diretta il leader della Lega, Matteo Salvini. Voglio dire già all'ascoltatore che l'ha sentito, che lo annunciavamo nei titoli, dice potreste anche evitare di intervistarlo, è onnipresente, guardi qua facciamo tutto. Ieri abbiamo avuto un'intervista col Presidente del Consiglio, oggi ci sarà Matteo Salvini, domani, ve lo dico già oggi, dovremo avere il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle. Traffico e poi Salvini. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Effetto Giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della decisione dell'Alta Corte della Gran Bretagna, che ha dato ragione al fronte pro-europeo. Il Parlamento deve votare sulla Brexit, ma l'esecutivo ha deciso di fare ricorso, e da questo lato c'è stato un balzo della sterlina. Tra l'altro la Banca Centrale Britannica ha deciso, anche questa è una notizia di pochi istanti fa, di lasciare invariati i tassi allo 0,25%, sembrava che fosse intenzionata invece a tagliare i tassi appunto causa Brexit. Abbiamo parlato della disoccupazione in crescita, ma il dato fa segnalare anche il fatto che calano gli inattivi, più gente cerca lavoro, in discesa la disoccupazione giovanile, e poi il rapporto del Centro Studi di Confindustria che parla dell'Italia che arranca ma resta la settima manifattura al mondo. Il terremoto, le nuove forti scosse nella notte, una di magnitudo 4.8, mi segnalano che è stata poi rettificata 4.7, il 90% delle scuole, secondo Legambiente, non è costruito con criteri antisismici. Allora, vi avevamo detto che avremmo avuto il leader della Lega, Matteo Salvini, in questo momento non ci sta rispondendo al telefono, vedremo che cosa farà. Nel frattempo iniziamo il nostro giro per l'Italia e iniziamo da Vicenza. Saluto il prefetto Eugenio Soldà, che è in linea con noi e torna ai nostri microfoni. Buongiorno prefetto e benvenuto. Buongiorno a voi. Era già stato con noi quando aveva riscontrato quel problema, nel quale aveva organizzato una riunione dei sindaci del Vicentino per parlare dell'accoglienza di profughi e migranti, e poi era successo che si erano presentati in pochi, relativamente pochi rispetto al numero di comuni. Adesso ha lanciato lei, come altri suoi colleghi sul territorio veneto, un'altra sorta di allarme. Voglio partire per parlare di questo da una frase di una persona, come dire, piuttosto famosa. Vediamo se abbiamo la voce del Papa, va. La misericordia possa raggiungere tanti che sono nel bisogno. È un impegno che coinvolge tutti, nessuno escluso. Le diocesi, le parrocchie, tutti siamo chiamati ad accogliere i fratelli e le sorelle. Tutti siamo chiamati ad accogliere i fratelli e le sorelle, ma a quanto pare, prefetto, da questo punto di vista avete un bel problema anche coi parroci. Sì, va bene, ma adesso non vorrei adesso entrare in polemica, che non c'era nessuna polemica in quella mia intervista. Era solo un momento di sfogo, un senso di solitudine e di frustrazione, perché veramente in difficoltà con delle persone che rischiavano di stare in mezzo a una strada, e sentire i parroci che mi chiudevano, e vedere i parroci che mi chiudevano porta in faccia mi ha deluso, ecco, quindi è stato più un grosso sfogo. Il problema esiste e bisogna affrontarlo, secondo me tutti insieme, non ci devono essere parroci di A e parroci B, sindaci di A e sindaci di B. La situazione è questa, l'accoglienza va fatta e bisogna dare un contenuto a quella che è la parola solidarietà. Però appunto mi sembra aver capito che anche i parroci non ci stanno in Veneto, quantomeno nella provincia di Vicenza. Vabbè, non è proprio così, qualche parroco c'è, una mano ce l'ha data, non è vero questo, per carità. Però ecco, in quel momento, di quel giorno, mi serviva una mano in più, ecco, questo era quello che chiedevo. È stato un grosso sfogo, senza dubbio, ma diciamo ho espresso tutta la mia frustrazione. Sento una cosa, prefetto, vorrei chiudere così con lei. Se ne è parlato molto in questi giorni su come viene gestito il sistema di accoglienza in questo paese, no? E sottolineato che spesso il problema risiede proprio nel fatto che è centralizzato e quindi passa da voi e spesso scavalca i sindaci. Lei ritiene che sia un problema questo? Ma senza dubbio è un problema, perché senza dubbio se ci fosse una collaborazione, io nel mio piccolo devo dire, facciamo proprio un conto proprio della serva, in provincia di Vicenza ci sono 2300 profughi, se io li divido per i 100 comuni, 121 comuni, avremo 19 profughi a comune, ecco lì che di media, e sarebbe una soluzione veramente minimale, non invasiva nelle comunità. Purtroppo ho il 50% di sindaci che non collaborano e di conseguenza c'è qualche realtà territoriale che è più penalizzata rispetto ad altre. La ringrazio, grazie al prefetto di Vicenza Eugenio Soldà. Immagino che Matteo Salvini abbia molto da dire sull'impostazione anche dello stesso prefetto, probabilmente. Salvini, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie per l'invito, ma una correzione semantica che per un prefetto dovrebbe essere sostanziale. Lui parla di profughi, sono presunti profughi, che i numeri ci dicono nei 2/3 dei casi verranno riconosciuti come clandestini. Quindi almeno il prefetto che rappresenta lo Stato usi per rispetto nei confronti degli ascoltatori i termini esatti. Qua non si tratta di spargere un po' di profughi. Qua i 2/3 di quelli che stiamo piazzando negli alberghi verranno riconosciuti come immigrati clandestini da espellere. Questa è la vergogna. Sì, se non erro in realtà la percentuale è del 40% di riconoscimento delle richieste di asilo e poi spesso si va in appello. Ma insomma, comunque il punto è questo. Io vorrei, al di là della questione migranti e profughi, andare con lei sul tema, su temi più generali di politica, a partire dalla questione del referendum. Mi sembra che lei sia stato molto chiaro oggi. Ha detto, va bene, se vince il no, tocca andare a votare. Sì. Già gli italiani stanno vivendo, Renzi è partito da marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, 9 mesi di campagna elettorale, durante le quali il Parlamento è sostanzialmente bloccato, durante le quali la disoccupazione è tornata all'11,7%, il mondo sta cambiando, ma Renzi si occupa di legge elettorale e di referendum. Grazie a Dio manca un mese, se vince il no, come chiunque sta ipotizzando, si cambia pagina, si torna a lavorare. Guarda caso, io oggi ho fatto una conferenza stampa non sul referendum, ma sulla flat tax, su un'aliquota fiscale unica al 15%, che penso potrebbe interessare a molti di coloro che ci ascoltano. C'è un sito, tassaunica.it, che dà tutte le risposte a tutti i dubbi, le coperture, i mancati introiti, i maggiori introiti. Mi piacerebbe che di questo si occupasse il Parlamento. Detto ciò, come dire, il referendum costituzionale è importante, come dire, a prescindere da come a prescindere da come uno la veda, a prescindere dal fatto che magari in questo momento gli italiani sono concentrati su altre cose, stiamo parlando del cambiamento del nostro sistema istituzionale, no? Che mi si rizzano i capelli in testa quando anche i sostenitori del sì, se voi sentite uno del sì qualunque, ho sentito Benigni, ho sentito De Luca, ho sentito dei ministri, tutti precisano. Partono dicendo, allora la riforma è un po' pasticciata, non è perfetta, non è elegante, si poteva fare meglio, però è un primo passo. Ma ragazzi, stiamo parlando della Costituzione, tu incasini ulteriormente i rapporti non solo fra Stato e Regioni ma anche fra Camera e Senato, perché poi più la leggi, più ti metti le mani nei capelli. Il Senato avrà parere fondamentale su 18 competenze, ma sarà formato da un dopolavoro di consiglieri regionali e sindaci nominati dai partiti che in più hanno come omaggio l'immunità parlamentare. Quindi magari qualche consigliere regionale o qualche sindaco da salvare viene nominato da questo o quel partito senatore, così non lo tocchi più, senza contare l'Unione Europea, che per la prima volta e unico caso in Europa sbarca in Costituzione con i suoi vincoli, che anche se adesso Renzi si rende conto essere folli, sbarcano in Costituzione. Quindi Renzi non può rimproverare l'Unione Europea, come giustamente fa, di non intromettersi sulla ricostruzione, sulle scuole, sulle case crollate, sul terremoto. Però allora devi essere conseguente, non mi puoi mettere in Costituzione. Però mi scusi Salvini, è anche il riconoscimento del fatto che siamo parte di una comunità, no? Che a lei non piace, questo non è che sto dicendo, no? Perché poi ognuno ha le sue opinioni. Comunità. È squilibrata, costa agli italiani 6 miliardi di euro in più ogni anno fra il dare e l'avere, e non ci dà una mano sull'immigrazione, mette becco sul post terremoto, sulle banche ha tirato fuori una direttiva come quella del bail-in, disastrosa, che fa pagare i risparmiatori e non i banchieri, direttiva peraltro votata da Renzi, ha votato una direttiva Bolkestein che mette a rischio 200.000 posti di lavoro in Italia, e io una realtà del genere la metto come vincolante in Costituzione per sempre da lasciare ai miei figli? No. Senta una cosa, però, come dire, al di là di questo, lei come giudica il fatto che un po' il governo stia puntando i piedi con l'Europa su una serie di temi? Se al di là del puntare i piedi facesse, avrebbe il mio sostegno. Cioè, se la letterina di Bruxelles sulla manovra di stabilità fosse stracciata da un governo serio e sovrano, avrebbe il sostegno della Lega. Il problema è che Renzi si lamenta, ma poi nei fatti ha avallato per 3 anni qualunque scelta europea, le sanzioni contro la Russia, il bail-in, il patto di stabilità, le normative folli contro l'agricoltura e il made in Italy. Sull'immigrazione io mi sono sentito dare del fesso per un anno da Renzi e da Alfano, quando sui ricollocamenti votavo contro a Bruxelles dicendo guardate che ci prendono in giro, e Renzi mi diceva ma no Salvini, non hai capito niente, ricollocheranno 60.000 immigrati, ne hanno ricollocati 1.000. Come giudica a proposito lo scontro con l'Ungheria, l'ipotesi che l'Italia mette il veto sul bilancio europeo, come lo giudica? Ma l'Ungheria difende l'interesse degli ungheresi, come gli svizzeri difendono gli svizzeri, gli austriaci gli austriaci e i francesi i francesi. Quindi non me la prendo con chi fa l'interesse del suo paese. L'Ungheria cresce il triplo rispetto all'Italia, una disoccupazione al 6%. E ha una flat tax. Ma dico l'ipotesi di mettere il veto sul bilancio europeo per costringere questi paesi ad accettare i ricollocamenti, la convince? Il problema è che questa Unione va rivista da cima a fondo, da Maastricht. No, adesso ce la possiamo prendere con l'Ungheria, per carità di Dio, ognuno se la prende con chi vuole, ma sono le regole che non funzionano. Il veto Renzi lo doveva mettere quando si discuteva la normativa sulle banche, che invece ha sostenuto, che adesso tutti dicono essere una follia. Il veto lo doveva mettere quando venivano prese sanzioni economiche contro la Russia, che stanno costando 5 miliardi di euro alle imprese italiane, ma il ditino non l'ha mai alzato. Quindi, sai, la differenza fra me e lui è che io posso parlare a Radio 24, andare a Bruxelles come farò stasera e fare le mie proposte, ma sono all'opposizione. Il mio omonimo è al governo, quindi se vuole le cose le fa, non le minaccia, le fa. Al governo le cose le fai, non le minacci. Senta, dal lato terremoto invece, Salvini, c'è la possibilità di costruire un minimo di unità nazionale, per così dire, per gli interventi che riguardano le zone colpite? Doveroso. Noi abbiamo riproposto per la terza volta la soluzione dell'esenzione fiscale triennale per famiglie e imprese colpite dal terremoto. L'avevamo proposta per l'Emilia, ce l'hanno bocciata, l'avevamo proposta per l'Umbria, ce l'hanno bocciata. E io su questo darei tutti i voti della Lega a Renzi, ma non per la sospensione. Lo Stato in questo momento dice, cosa dice ai terremotati? Ciao, io che sono buono per 3 o 6 mesi non ti faccio pagare le tasse, però fra 6 mesi te le vengo a chiedere con gli arretrati. Ma secondo te, se uno ha perso la casa, se ha perso il negozio, se ha perso l'azienda, fra 6 mesi è in grado di ricominciare a pagarti le tasse? Non si possono esentare per 3 anni dagli adempimenti fiscali queste persone che già sono state porterete questa proposta in Parlamento, suppongo? Sì, per la terza volta, sperando che ci ascoltino. Le prime 2 volte è andata male, però siamo cocciuti. E per il resto, anche se non entrasse questa proposta, alcuni elementi come la sburocratizzazione per consentire ai sindaci, no, di fare degli interventi immediati, sì, certo, la convince? Sì, sì, però ad esempio oggi Renzi si lamenta, il patto di stabilità mette a rischio di crollo le scuole. Ma il patto di stabilità è una scelta del governo italiano oltre che dell'Europa, e quindi Renzi da ex sindaco se lo dovrebbe ricordare. Sì, però mi sembra di aver capito che quella è una cosa, Salvini, un po' più in prospettiva, dice, nel senso, noi non stiamo dentro il patto. No, mi scusi, dico, il concetto mi sembra è, non stiamo dentro il patto se questo patto non ci consente, cioè siamo disposti a fare eventualmente extra deficit se questo ci consente di rimettere a posto le scuole. Lo sottoscrivo domani mattina. Questo te lo sottoscrivo domani mattina, ricostruire è la priorità, mettere in sicurezza è la priorità, te lo firmo. E questo è già un segnale, per così dire. Vedremo come andranno le cose da questo punto di vista. Intanto io la ringrazio, grazie a Matteo Salvini, leader della Lega, per essere stato con noi. Le auguro buona giornata. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, a partire dalla sterlina, che ha avuto un balzo per la doppia notizia. Da una parte l'alta corte che ha dato ragione al fronte pre-Europa e ha detto che il Parlamento deve votare sulla Brexit, dall'altra parte la Banca Centrale Britannica, che a questo punto ha deciso di non tagliare i tassi. E poi riprenderemo il nostro giro per l'Italia, andremo proprio nelle zone terremotate e vi racconteremo la vicenda del comune di Vallo di Nera, 18 chilometri da Norcia. Beh, qualche danno c'è stato, un po' di paura c'è, ma dato che è stato ricostruito nel 79 in una maniera pazzesca, a partire dal 79 quando c'è stato il grande terremoto, beh, è crollato ben poco e si vedono anche ben poche crepe. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: Gran Bretagna, come vi dicevamo, l'alta corte ha dato ragione al fronte pro Europa, il Parlamento deve votare sulla Brexit, ma l'esecutivo ha deciso di fare ricorso. La disoccupazione in crescita, ma calano gli inattivi, più gente cerca lavoro, in discesa la disoccupazione giovanile. Confindustria dice l'Italia arranca, ma è la settima manifattura al mondo. Terremoto, nuove forti scosse nella notte, una di magnitudo 4.7, nuovi crolli. Il 90% delle scuole, secondo Legambiente, non è costruito con criteri antisismici. Referendum, la decisione del Tribunale di Milano sul ricorso presentato da Unida non arriverà prima di 10 giorni. Migranti, casi di torture ed espulsioni illegali in Italia, accusa Amnesty, replica il Viminale nel rapporto falsità. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Appena 400 anime o poco meno tra i borghi più belli d'Italia, bandiera arancione del Touring Club, parliamo di Vallo di Nera, a 18 km da Norcia, quindi nella piena area colpita dal sisma. E però Vallo di Nera non è venuto giù come altri paesi della zona. Abbiamo in linea la sindaca Agnese Benedetti. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie. Allora, come mai? Intanto non siamo nel pieno epicentro, quindi questo fa molta chiaro, differenza. Chiaro, ovvio. Siamo in una cintura in piena Valnerina e noi siamo stati fortunati, ma negli anni abbiamo anche cercato di lavorare. Dopo il terremoto che colpì la Valnerina nel 1979 e poi successivamente a quello del 97 che interessò di nuovo l'Umbria, noi abbiamo cercato di ricostruire, restaurare il nostro borgo storico. È un paese medievale, compatto, si era mantenuto benissimo nei caratteri architettonici e quindi è stato fatto un grosso recupero, un'azione di recupero, proprio con dei piani di recupero, le case adeguate da un punto di vista sismico e soprattutto mantenendo quei caratteri originali. Quindi questa possibilità potrà esserci ancora adesso. Vorrei dare un messaggio di speranza: dove c'è oggi devastazione, che si può rinascere, e Vallo per ora ne è un esempio. Sì, qualche ascoltatore insulta dicendo, me naturalmente, dice Vallo di Nera non è epicentro, ma no, abbiamo detto che non è lontana dall'epicentro, come tutta evidentemente, come certo, tutta quell'area, cioè se ho detto che era l'epicentro mi sono sbagliato, ma non è quello che intendevo e lo so benissimo. Tra l'altro, aiutati, lo ricordiamo, allora, il terremoto del 79, devastante, sì, per la vostra area, sì. Nel 76 c'era stato il terremoto in Friuli e voi siete, come dire, avvalsi anche delle competenze che ci sono state in quel terremoto, no? Che si sono, sì, create in quel terremoto. E progetti esecutivi delle UMI, delle unità minime di intervento in cui era stato suddiviso il paese, perché fu fatto un intervento unitario di prime e seconde case indistintamente, quindi considerando proprio le strutture, i progetti esecutivi furono redatti, prodotti da uno studio di Modena dell'architetto Zivieri, che aveva avuto appena appena l'esperienza in Friuli. E devo dire che si sono veramente rivelati provvidenziali, perché sa, non siamo nell'epicentro, ma di notte non dorme nessuno nelle case. Certo, naturalmente, perché comunque, come dire, le cose sono in ordine, le case sono a posto, però la gente ha paura a starci dentro, è naturale. Non ci sono lesioni, ma le scosse sono fortissime e comunque ripetute, quindi anche stanotte ce n'è stata una di 4,8. Ormai siamo tutti esperti anche nel leggere velocemente la magnitudo di ogni scossa, e quindi ancora si sta fuori, anche perché questo terremoto è veramente imprevedibile. Senta, Benedetti, l'altra cosa è che nella pianificazione successiva avete deciso di non ricostruire dove c'era un rischio evidente che il terreno non avrebbe retto, no? Sì, la componente del terreno è importante. Dentro il paese di Vallo di Nera, questo centro storico a forma ellissoidale, c'è una fascia da cima a fondo di orti, erano tutte case crollate, probabilmente gli ultimi crolli ci furono con il terremoto del 1703, quindi considerando che i nostri antichi, i nostri avi non avevano più ricostruito, abbiamo scelto di farlo anche noi. E che ci avete messo là? Ci sono gli orti dove si coltiva di tutto, giardini, pomodori, tutto quello che è ortaggio, carciofi, ma sono una fascia dentro la pianta del paese ben visibile. È uno studio di microzonizzazione ante litteram che scientificamente poi abbiamo deciso di seguire anche dopo. La ringrazio, grazie Agnese Benedetti, grazie a lei, sindaco del comune di Valle di Nera, grazie per essere stata con noi, altro gioiello di quella zona da visitare che, come avete sentito, è rimasto intero, quindi si possono fare, come dire, dei lavori di ricostruzione che funzionino davvero. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, poi Mario Platero e poi ci risentiamo alla fine per i saluti, come sempre.